vanno a vedere quanto è furba la vita. Vanno in fondo alla strada, buia cieca infinita, con due soldi di carta e una corda tra le dita. Vanno più lontano col coltello tra i denti, a spaccare le pietre, tra bufere e tormenti. Vanno a tentar la luna, a cercare un po' di fortuna. Quando il fuoco si alza e li lascia perplessi, loro migrano soli per sentieri diversi, mentre l'acqua che manca li brucia e li vorrebbe persi. E si lasciano dietro tante tante domande, storie vecchie finite che non dicono niente, poi posto al coraggio, addio mia cara gente. E viva gli emigranti, quelli che sanno cosa vuol dire andare avanti. Noi siamo una storia di storie, siamo tutti, noi siamo tutti degli emigranti, uomini giusti, profeti, poeti e santi. Una goccia nel mare è la loro avventura, un oceano immenso è la loro paura, quanti sogni di gloria perduti nella memoria. Una vita stracciata per poter ritornare a sognare le stelle, per poi invece trovare stalattiti di ghiaccio e nient'altro da raccontare. Quando il vento si alza e li lascia perplessi, loro migrano soli per sentieri diversi, mentre l'acqua che manca li brucia e li vorrebbe persi. E si lasciano dietro tante tante domande, storie vecchie finite che non dicono niente, poi posto al coraggio, addio mia cara gente. E viva gli emigranti, quelli che sanno cosa vuol dire andare avanti. Noi siamo una storia di storie, siamo tutti, noi siamo tutti degli emigranti, uomini giusti, profeti, poeti e santi.